Magazine 24, la rassegna dei settimanali. Buongiorno e benvenuti a Magazine 24. Sono Marco Bellinazzo e vi terrò compagnia in questo appuntamento che Radio 24 dedica ai periodici e ai mensili che trovate in edicola. È domenica 8 gennaio, le festività natalizie sono alle spalle, ma mi piace partire in questa rassegna stampa da un articolo che parla del Capodanno, di un Capodanno insolito. L'autrice è Tamara Ferrari e l'articolo lo trovate su Vanity Fair di questa settimana e si parla appunto di un Capodanno particolare perché è un Capodanno trascorso dall'autrice in Afghanistan, nella stazione Highlander, che è un avamposto dell'esercito italiano, in cui un anno fa è morto uno dei militari che purtroppo hanno perso la vita in questa missione, l'alpino 32enne Luca Sanna. La giornalista ha voluto trascorrere appunto un Capodanno, una notte speciale con i militari che presidiano questo avamposto. Si tratta tra l'altro di 8 uomini che operano sotto il comando di una donna ed è l'avamposto appunto più esposto agli attacchi e ai pericoli in Afghanistan. L'autrice è stata lì alcuni giorni, ha fatto amicizia naturalmente con i soldati e volevo leggervi queste poche righe dedicate alla notte del 31 dicembre. A Highlander il Capodanno arriva in anticipo. Cena a base di scorte personali sacrificate per ospitarci, pasta, qualche spiedino, cotechino e lenticchie. Una bottiglia di vino che siamo riusciti a portar su dalla base. Si mangia seduti sulle brandine, si beve in bicchieri di plastica sciacquati e siccome non bastano qualche bottiglietta di plastica tagliata a metà. Alle 22 la festa è finita. I due di turno vanno a dare il cambio ai colleghi in garritta. Infine l'elmetto, il giubbotto antiproiettile e vado ad aspettare con la loro la mezzanotte. Ci raggiungono tutti, in breve tempo nelle due torrette non entriamo quasi più. Nel buio della notte le torce illuminano i visi, qualcuno solleva una bottiglia di spumante e iniziamo il conto alla rovescia. Volpe da Highlander, Volpe da Highlander, la voce metallica della radio ci interrompe. Avanti Volpe, qui è il comandante che vi augura buon anno. Io penso ad Antonella e al suo capodanno nel lince. Chissà se è riuscita a scendere, chissà se ha incrociato le dita. E sarà il clima natalizio, ma uno dei temi più gettonati dei settimanali è quello della famiglia. In particolare se ne occupano Focus e Famiglia Cristiana, mettendo a fuoco due aspetti peculiari. Il primo è il cosiddetto fattore F, cioè il fattore fratelli di cui si occupa Focus. Ora, molti di noi hanno fratelli o sorelle e Focus ha raccolto tutta una serie di indagini e di ricerche scientifiche che hanno cercato, insomma, di valutare qual è l'influsso dei fratelli o delle sorelle sui fratelli più piccoli o più grandi e ce ne sono di cotte e di crude, naturalmente. L'articolo mette però a fuoco anche gli aspetti positivi, per esempio alcuni fratelli come i fratelli Grimm sono riusciti insieme, lavorando insieme e raccogliendo le fiabe della tradizione a diventare famosi, a realizzare opere letterarie di cui ancora oggi si parla in ogni paese. Per altri invece per altri fratelli il rapporto è più difficile, per esempio David ed Ed Miliband, che erano entrambi candidati a guidare il partito laburista inglese, hanno avuto modo di scontrarsi. David era il favorito in queste elezioni, invece ha vinto il fratello minore e così David ha deciso di fare un passo indietro dalla scena politica per evitare continui confronti. Ecco, da un lato i fratelli Grimm, dall'altro i fratelli Miliband sono i due esempi da cui questa inchiesta parte per raccontarci cosa vuol dire essere fratelli. In particolare poi c'è questo aspetto che mi ha lasciato molto perplesso avendo una sorella, ma pare che chi abbia sorelle sia avvantaggiato nella vita. Ci raccontano infatti i risultati di una indagine messa a punto dalla Brigham Young University degli Stati Uniti, che in sostanza avere sorelle avrebbe un effetto antidepressivo. hanno appunto analizzato le relazioni all'interno di 395 famiglie, questi scienziati, e hanno notato come le sorelle sembrano avere appunto un effetto benefico. Gli adolescenti con una sorella, infatti, rischiano meno di sperimentare solitudine, paura, sensazione di non essere amati. E c'è un più generale effetto fratello che funziona per maschi e femmine. Un buon rapporto tra fratelli promuove la disponibilità verso gli altri e gesti di altruismo. Per cui i genitori dovrebbero incoraggiare l'affetto tra fratelli nell'adolescenza, è un potente fattore protettivo, conclude la scienziata di cui si riportano i risultati appunto sul numero di focus di questo mese. La buona influenza delle sorelle, tra l'altro, è confermata da una ricerca dell'Università dell'Ulster su 571 giovani. È emerso che i ragazzi con sorelle tendono ad essere più ottimisti, equilibrati e a instaurare rapporti più sereni. Una possibile spiegazione? Le femmine parlano più apertamente dei loro sentimenti e ciò stimola anche i maschietti a esternare più spesso ciò che provano. Così le sorelle favoriscono la comunicazione, la discussione dei problemi e la coesione in famiglia e sono un sostegno nel caso i genitori si separino. Dunque è bene che nelle famiglie ci sia almeno una sorella. Ma non è finita qui, la ricerca indaga altri aspetti della vita familiare, dell'essere fratelli e sorelle pone l'attenzione sul cosiddetto cocco. Ogni genitore ha il suo preferito, anche se nessuno lo ammetterebbe, e pare che il 65% delle mamme e il 70% dei padri, secondo questa ricerca svolta in questo caso dall'Università di Davis in California, avrebbero il preferito, anche se non lo ammettono ovviamente con gli altri figli. Ma i favoritismi fanno male. Uno studio sulla società americana sullo sviluppo infantile, su circa 5.488 famiglie, ha rivelato come un trattamento iniquo da parte dei genitori genera risentimento nei figli sfavoriti, minando il rapporto tra fratelli, ma ha un impatto negativo anche su quelli favoriti, che vivono l'atteggiamento dei genitori come ingiusto e imprevedibile, il che aumenta la loro insicurezza. Quindi ancora liti e contrasti che determinano evidentemente intolleranza poi in quelli che saranno i rapporti che i fratelli e le sorelle in questo caso poi svilupperanno nell'età adulta. Come dicevo, di famiglia si occupa poi anche Famiglia Cristiana, che è un po' il periodico che per elezione sceglie questo tema, ma questa volta lo fa interessandosi dei padri, rivalutando un po' la figura paterna alla luce di tre libri che sono usciti in queste settimane, libri scritti da Gianfelice Facchetti, Eugenio Corso e Paolo Iannacci, che hanno voluto rivelare aspetti inediti dei loro illustri genitori. Gli articoli di Renata Maderna e Paolo Perazzolo appunto ci illustrano questi tre diversi modi con cui i figli hanno celebrato e spiegato, tentato di illustrare il rapporto con il proprio padre, e mi sembrava però molto interessante leggere quello relativo ad Eugenio Corso, giornalista che ha appunto raccontato la storia e il suo rapporto con il padre Vittorio, ucciso dai terroristi nel 1976. Occorso era un magistrato che indagava appunto su terroristi neri, servizi e logge deviate, e venne assassinato a Roma sotto casa. Il figlio Eugenio, appunto, che allora aveva 20 anni, fu allontanato dal corpo senza vita del padre mentre tentava, insomma, di soccorrerlo. E Occorso, nella sua vita di giornalista, poi ha affrontato varie volte questi aspetti della fase così cruenta degli anni 70, e ha avuto poi un figlio, il quale, quando Pierluigi Concutelli, che era l'esecutore materiale di quel delitto e che fu condannato all'ergastolo, è stato poi liberato, ha avuto una reazione molto, molto dura. Vittorio Junior, che appunto è il nipote del giudice ucciso, ha manifestato anche pubblicamente il proprio disappunto per la liberazione di Concutelli. Occorso ha scritto questo libro appunto colpito dalla reazione del figlio e cercando di mettere a fuoco invece quello che era successo, e si è chiesto come mai quella ferita fosse ancora così aperta, in particolare nel proprio figlio. Così il padre ha voluto insegnare quello che a sua volta aveva ricevuto come insegnamento dal giudice Vittorio Corso, cioè la comprensione e il perdono. E tutto questo libro si muove intorno a questo tema, che mi sembrava molto interessante. E volevo concludere questa prima parte di Magazine 24 proprio citando un brano dell'articolo che si occupa di questo libro. Ciò che il padre Vittorio ha lasciato al figlio Eugenio e che lui vuole a sua volta lasciare al suo figlio e a chiunque voglia raccogliere la loro testimonianza è il senso dell'etica, il valore del comportarsi bene puro e semplice. Mio padre ha dato alla società più di quanto abbia ricevuto, fino al sacrificio. Mio figlio mi rimprovera di essere buonista e sottomesso. Io credo, ed è quanto ho tentato di trasmettere con il libro, che esistano persone buone, che si possa avere un atteggiamento positivo verso gli altri senza mettersi in una posizione di sottomissione. Forse è la soluzione che ho trovato per non impazzire, ma la differenza fra noi e chi ha sbagliato non sta proprio in questo. Chi può dirlo, se non che si è visto morire il padre sotto gli occhi? Magazine 24. Bentornati a Magazine 24, sono Marco Bellinazio. Vi ho raccontato in quella prima parte della trasmissione del concetto di perdono evocato nel rapporto paterno da Eugenio Corso nel suo libro. Di un altro libro che parla di perdono si occupa ancora Famiglia Cristiana. Il libro l'ha scritto Gherardo Colombo, un magistrato notissimo che per oltre 30 anni si è occupato di terrorismo, P2, Mani Pulite e Toghe Sporche. Colombo appunto si chiede perché il perdono, che pure è un concetto spesso tirato in ballo per quanto riguarda gli aspetti religiosi della vita, non sia anche un concetto giuridicamente tutelato, mentre ci troviamo sempre più spesso di fronte al richiesto di una tolleranza zero per reprimere i fenomeni criminali. E questo libro, Il perdono responsabile, richiama appunto l'attenzione su questo tema. È raro, scrive appunto Colombo, che coloro che usufruiscono delle misure alternative al carcere come mettano nuovamente reati. Eppure la società sembra poco disposta a recepire questa certezza statistica. 20% di recidiva per gli affidati in prova contro il 68% per chi sconta la pena in carcere. A chi gli chiede le ragioni di tanta resistenza, Colombo risponde che dipende dal fatto che in materia di sicurezza non si ragiona, ma si sente di pancia. E questa richiesta di tolleranza zero, come sappiamo dalle cronache quotidiane, ha riempito le carceri in maniera ormai intollerabile. Ci sono spesso suicidi che dal punto di vista evidentemente della pietas cristiana fanno gridare allo scalpore per la invivibile situazione dei carcerati. E questo tema è affrontato proprio da Famiglia Cristiana in un articolo che lo affronta da un punto di vista diverso da quello che solitamente viene utilizzato. Infatti questo articolo di approfondimento di Alberto Laggia ed Elisa Chiari si punta l'attenzione sulle tante carceri che in Italia in realtà sono state costruite e quindi sono costate miliardi allo Stato, sono sostanzialmente agibili ma non sono mai state utilizzate. Nel nostro paese le carceri scoppiano, inizia appunto questo articolo. Deteniamo il record di sovraffollamento tra paesi dell'Unione Europea, con un tasso che oscilla attorno al 150%, primato che ci avvicina a quelle nazioni in cui i diritti umani valgono come la carta straccia. Ma pochi sanno che a fronte di strutture carcerarie vicino al collasso, come quelle di Lamezia Terme, che ha il triplo di detenuti, Ancona, Capienza, 172 posti e 390 detenuti, Brescia, con 200 posti e 530 detenuti, ci sono penitenziari costruiti, spesso ultimati, a volte pure arredati, addirittura inaugurati e mai utilizzati, dismessi e lasciati marcire. Paradosso non strano ed esempio di spreco inaudito di denari pubblici. Quello delle prigioni fantasma è un fenomeno più volte denunciato dalle associazioni che operano dentro le mura del carcere, dai sindacati di polizia penitenziaria o dall'interrogazione parlamentare di turno. Ma invano, se le prigioni che scoppiano non fanno notizia, figuriamoci quelle vuote. Dal nord al sud della penisola di queste strutture ne sono state censite 38, secondo l'ottavo rapporto nazionale sulle condizioni dei detenuti presentate alla fine di agosto dall'associazione Antigone, ma la cifra è approssimata per difetto. E tra i casi emblematici di questo spreco, nell'articolo si parla in particolare di San Valentino, un suggestivo borgo montano tra la Maiella e l'Adriatico in provincia di Pescara, dove da 20 anni è stato costruito un carcere mandamentale mai attivato. L'edificio su 2 piani con 25 celle, iniziato nel 1984, è stato concluso nel 1990 e collaudato 3 anni dopo. È costato all'amministrazione penitenziaria 3 miliardi e 58 milioni di lire, ma ancora attendiamo il decreto attuativo per poter disporre dell'immobile, racconta il sindaco Angelo D'Ottavio. Intanto giace in totale abbandono tra sterpagli e arbusti. Lo spazio verde antistante è diventato terreno di pascolo. Un pastore ci portava le pecore e i cavalli. Il contatore del metano è funzionante, segna pochi metri cubi erogati, ma ci si domanda ancora per chi. Dall'Appennino alla pianura padana, segno che gli sprechi non hanno confini territoriali. Si parla invece poi del caso di Revere, un comune del Basso Mantovano, sulle rive del Po, dove è stata costruita anche qui una struttura, tra l'altro una struttura molto moderna, che doveva accogliere coloro che avevano commesso reati minori e quindi riabilitarli in maniera più rapida del consueto. E anche qui una struttura costata ben 5 miliardi delle vecchie lire, naturalmente, che doveva ospitare 80 detenuti in 40 celle, costruita, inaugurata, ma mai utilizzata. E intanto, nelle carceri italiane, al 30 novembre del 2011, su una capienza regolamentale di 45.818 detenuti, si trovano invece a scontare la propria pena 67.428 detenuti, di cui 14.639 in attesa di giudizio. E parliamo ora di un altro argomento. Avrete tutti sentito parlare di liberalizzazioni, di tentativi di abbattere le lobby. Il nuovo governo Monti sta provando a farlo, ma ci sono lobby particolarmente resistenti che riescono a schivare qualsiasi tentativo di liberalizzazione. E della più potente di queste lobby, addirittura chiamata Taxi Power, ci parla l'Espresso nel servizio di copertina di questa settimana, un articolo di Paolo Biondani ed Elena Bonanni. 9 dicembre 2011, ci raccontano i due colleghi dell'Espresso. Per il popolo dei taxi è una giornata di allarme rosso. Il governo Monti ha appena inserito nella manovra Salva Italia un articoletto che promette di rilanciare la temuta liberalizzazione delle licenze. A Roma si presentano 7 dirigenti delle più importanti organizzazioni di categoria. Parlano a nome di migliaia di colleghi, dalla Lombardia al Lazio, dalla Campania al Veneto. Nella capitale incontrano i parlamentari della Commissione Bilancio. Discutono un emendamento, lo scrivono e lo riscrivono insieme. Prima di sera il testo è pronto. Indietro tutta. Il colpo da maestri è spiegare ai politici come sia la stessa direttiva europea sulle liberalizzazioni a dichiararsi inapplicabile ai taxi, in quanto servizi pubblici non di linea, come invece sono le ambulanze. L'indomani i leader dei tassisti si vedono ricevere dal segretario generale di Palazzo Chigi Manlio Strano, che ufficializza il dietro front. La riforma sparisce dalla manovra di fine anno. Per i Magnifici 7 è la seconda missione compiuta in meno di 6 mesi. La prima è dell'estate scorsa, quando l'allora ministro Giulio Tremonti abbozza una liberalizzazione targata centrodestra. Sono sempre loro a convergere su Roma e a spingere il governo Berlusconi a ritrattare. A tutt'oggi l'unico tentativo di riforma nel mercato delle licenze porta ancora la firma di Bersani nel 2006, che però fu in gran parte svuotata dopo le massicce proteste delle auto bianche nelle grandi città. Quella dei tassisti, insomma, sembra una lobby invincibile e difficile anche da quantificare. Se per la prima volta i dati ufficiali dell'ACI parlano di 25.000 vetture, le associazioni contano oltre 60.000 licenze, in un caos di cifre tutto italiano. E ora due notizie curiose che troviamo ancora sull'Espresso, in edicola questa settimana. Una riguarda Carlo d'Inghilterra. Pare che sia interessato a diventare il re della Romania. lì ha acquistato alcuni terreni, ci racconta appunto l'Espresso, e pare sia molto amato dai cittadini locali. Di certo c'è l'amore di Carlo appunto per la Romania, che è la terra in cui ha scelto di comprare di diversi terreni dove investe, e pare che abbia di recente anche sostenuto di essere un discendente del conte Dracula, così scrive l'Espresso. Sempre notizie strane e divertenti ci riporta l'Espresso, questa volta torniamo nei confini nazionali, dove Domenico Scilippoti, il leader dei responsabili, pare che senta odor di zolfo politico e continui a ripetere che in giro c'è un anticristo che sta tentando di fare breccia nel popolo italiano. Dall'opposizione al governo Monti, scrive l'Espresso, a quella contro l'anticristo, il salto non spaventa il deputato ex dipietrista che ora presiede i cosiddetti responsabili. Da qualche tempo Scilippoti è ospite fisso sul sito integralista cattolico Pontifex. Fanatismo a gogo, titoli come «Massoni ed ebrei contro il Papa», «Gli ebrei da sempre nemici della Chiesa e dei cidi», «Omosessuali? Misericordia, ma gli animali sono più ordinati di loro», o anche «Non dare la comunione a Vendola e omosessuali conclamati», e via così in squallida allegria. Domanda: ma di che cosa sono responsabili? Responsabili è un interrogativo che evidentemente ci sentiamo di sottoscrivere. Intanto da mercoledì 11 gennaio sarà in edicola con Il Sole 24 Ore a soli 6,90 euro il primo numero della raccolta dedicata a Maigret. Sono 40 volumi che usciranno ogni settimana, che ci racconteranno testi inediti e noti invece della celebre serie del commissario Maigret. Il tempo a disposizione per Magazine 24 è finito. Io ringrazio Roberto Scaltritti in regia e vi do appuntamento alla prossima settimana.